Kellogg. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Basta donne discinte sulle strade, basta appartamenti a luci rosse camuffati, basta annunci mascherati sui giornali. La Lega Nord prova nuovamente a dare i sacri crismi di regolarità e legalità alla prostituzione e lo fa con la presentazione di una proposta di legge in Senato. Noi vogliamo che queste ragazze sfruttate vadano via dalla strada e che venga regolamentata in maniera definitiva la possibilità di prostituirsi all'interno anche di abitazioni. Via libera al sesso a pagamento in caso e appartamenti, previo consenso dei condomini, un'autorizzazione della questura, il rispetto di norme igienico-sanitarie e il pagamento delle tasse. Il 75% degli italiani è d'accordo su questa nostra proposta. Noi faremo di tutto perché venga velocemente calendarizzata in Commissione Giustizia. Una boccata d'ossigeno è per un le casse dello fatto Stato. Di cui si sta parlando moltissimo, anche Radio 24 spesso ha interrogato il pubblico su questo problema, ma lo rifaremo questa mattina e dedicheremo anzi tutta la puntata a capire e sondare il parere di chi ci ascolta. Il termine è semplicemente posto. Quello che sembrerebbe impossibile che possa accadere in un paese come il nostro, così bigotto, così ligio all'osservanza, pur libertino nella costumanza, improvvisamente fa sì che una serie, prima timide e poi anche molto ben definite, di proposte di qualche maniera legalizzare la prostituzione, ma non al fine di legalizzarla in quanto abbassare il livello di ipocrisia di fronte a un fenomeno che già esiste, no, per cercare di razzolare il più denaro possibile anche da questa attività dove pare che di denaro ne circoli molto. Se ne parlò a febbraio, Fabrizio Cecchetti, presidente uscente del Consiglio regionale, candidato alla Lega Nord al Pirellone, comincia a proporre una tassazione dell'attività di prostituzione. Poi ne ha riparlato l'onorevole Biton, ci avete sentito, della Lega Nord, presenta una legge per regolamentare la prostituzione. E ultima, e questo fa sì che il problema venga più non considerato solamente da un certo punto di vista di una formazione politica che è sempre stata diciamo piuttosto controcorrente, ma è proprio una parlamentare, una senatrice del PD, del Partito Democratico, Maria Spilabotte, che sta lavorando anche lei una proposta di legge che preveda la depenalizzazione della prostituzione volontaria e diciamo una aperta idea di superare quella che è stata la legge Merlin, che da un certo punto di vista in poi ha evitato che si parlasse di ufficializzazione della prostituzione. Questa ultima, diciamo quest'ultimo proponimento di legge, perché ancora se ne parla così in termini piuttosto vaghi, è abbastanza articolato, non è solamente diciamo depenalizzare le prostitute che vogliano regolarmente svolgere questa professione, ma istituire proprio una vera e propria organizzazione della categoria professionale della prostituzione con la previdenza, con tutte le regolari garanzie che ha un lavoratore e naturalmente con la possibilità di pagare tasse, anzi con il dovere di pagare tasse. Ma andando ancora avanti, questo corrisponderebbe a un'opera di sensibilizzazione nelle scuole sulla reale dignità della figura della donna, perché non passi l'idea che lo Stato diventa un puttaniere. Insomma, si dà un colpo al cerchio, un colpo alla botte. Tutte queste proposte di legge sembra che al momento non abbiano corso, però siccome se ne parla in maniera insistente, se ne parla da varie forze politiche, vedrete che prima o poi del problema se ne parlerà in maniera ufficiale. Cadranno le barriere, ma di fronte a cosa? Non di fronte a un avanzamento nel costume, nella liberalità dello Stato, che non si pone più come il fabbricatore di braghettoni per i propri cittadini, ma se ne parlerà perché realmente lì girano molti soldi, come è accaduto per il gioco, prima clandestino, poi regolarizzato, poi diventato attività controllata allo Stato, ha sottratto comunque dell'illecito alle organizzazioni che su questo speculavano, potrebbe accadere anche per la prostituzione. Ma in realtà andare a puttane non è proprio esattamente come giocare a bingo. E su questo vorrei sapere il vostro parere. 800240024. Le prostitute ci sono, esercitano di fatto una professione che è esentasse, una professione che è completamente in nero e deve essere in qualche modo sanzionata, devono perlomeno pagare le tasse, lo ha detto giustamente l'amico Massimo Bitonci, ma lo dicono anche i giudici tributari che ormai più volte hanno ribadito con le loro sentenze che le tasse vanno pagate anche, io dico, soprattutto da parte delle prostitute. In Germania l'attività della prostituzione è legalizzata e tassata, c'è un giro di 7 miliardi. Ora non credo che l'Italia, che ha pochi meno abitanti della Germania, abbia un'attività intorno alla prostituzione così più bassa. Guardate, non nascondiamoci dietro un dito, la prostituzione esiste, è sulle strade, noi sindaci la sanzioniamo, ma di fatto l'unico... Queste sono voci prese sul dibattito politico che si svolge in questi giorni. A me non interessa però questa mattina sentire i politici, che hanno ampia facoltà di parlare in altri programmi, a sentire le persone che ci ascoltano, è proprio affrontare il problema nella sua radicalità. Sì, è vero, ci sono delle sentenze, una sentenza della Cassazione che dice a una signora che aveva un tenore di vita molto alto, chiaramente lo aveva svolgendo questo tipo di attività e comunque gli è stato riconosciuto che è un'attività che comunque su cui deve pagare le tasse. Se con questa attività si compra automobili, appartamenti, ha un tenore di vita lussuoso. Quindi diciamo che gli strumenti giuridico-amministrativi ci sono, diciamo il passo sarebbe breve, però l'unico ostacolo, l'unica grande blocco a questo tipo di idea, che dal mio punto di vista sarebbe un segno di civiltà, ci sarebbe una netta distinzione tra quella che è la prostituzione come sfruttamento, schiavismo, tratta delle donne, di cui vediamo ogni momento ampie dimostrazioni. Basta entrare da Roma dalla via Salaria, si vedono ragazzine che battono, tutte vestite in serie, dando l'idea che esista un unico grande racket che le veste, che le attrezza, che dà loro tutte le stesse scarpe, gli stessi pantaloni, le stesse camicette a seconda delle stagioni, le mette lì, va a riprendere la sera, passano con le macchine, automobili, passano forze dell'ordine, passano politici, passano arcivescovi, entrano e vengono da Roma, ma nessuno si rende conto che lì si svolge un vero e proprio mercato di schiavitù. Beh, questo dovrebbe essere più facile a circoscriverlo quando la prostituta diventasse una operatrice del sesso. Poi come definire questa attività non sta a noi, però basta aprire un sito internet alla voce escort, si trovano dei database dettagliatissimi, città per città, quartiere per quartiere, con le caratteristiche, con le tariffe, con il numero di telefono, addirittura con le stellette di gradimento dei clienti, con le prove su strada. Voi direte brutale, è brutale ma esiste. Alberto, buongiorno. Buongiorno, intanto volevo ringraziarla per il suo libro, perché ho una nipote autistica e devo dire che è stata mi ha aperto molte cose, molte aperture mentali. Io le sono grato, certo avrei desiderato aprire la trasmissione in modo diverso, oggi parliamo di prostitute, comunque va bene anche questo, io non sono, no, la pruderia è lontana da me, anzi è un libro in cui parlo molto anche della sessualità dei disabili, quindi è un problema che in qualche maniera coincide anche con quello che ho scritto, perché anche le operatrici sessuali per persone disabili dovrebbero essere delle figure riconosciute, nemmeno quelle nel nostro ordinamento hanno spazio, che in realtà svolgerebbe una funzione non solo utile ma necessaria. Andiamo al punto, Alberto, prendiamo in giuro oppure vogliamo ragionare su qualcosa che ci fa fare un passo avanti? Dico una cosa, ho 52 anni, non ho mai frequentato prostitute, proprio perché anche quando ero giovane si andava a fare il famoso puttan tour con la macchina e si andava a vedere, però non ho mai avuto il coraggio, proprio perché la cosa non era regolamentata, non c'erano garanzie sanitarie, non c'era niente, anche se dicevano che usando certe precauzioni non succede niente. Beh, lei aveva paura di frequentare donne dalla sessualità promiscua, quindi frequentava brave ragazze di parrocchia. Più o meno, però diciamo che sulle quali nessuno metterebbe la mano sul fuoco. Magari uno sfogo extra che pagando te la cavi in una giornata, si possono instaurare delle relazioni che nel tempo invece portano a rovinare la famiglia. Comunque io, Alberto, adesso andiamo, io, Alberto mi permette, scusi, io salterei questo passaggio. È chiaro che chi va con le prostitute ha delle difficoltà relazionali notevoli, perché altrimenti avrebbe delle normali relazioni. Oggi siamo in una società abbastanza libera, avere compagnia, affettività, ma anche piacevolezza sessuale non è che sia un problema insormontabile, ma non per tutti è facile, per alcuni sono degli ostacoli proprio di tipo fisico, di capacità di relazionarsi, per altri semplicemente è una brutale affermazione del possesso su una donna che gli attizza a pagarle. Comunque sia, io sono dell'idea che se delle persone per loro spontanea scelta decidono di dedicarsi al soccorso prezzolato di questi uomini, non ci trovo nulla di strano. Lei come la vedrebbe a questo punto di vista, al di là della sua esperienza personale? La nostra società è un po' ipocrita sulla cosa, perché mentre si tende, no, a perdonare il grande affarista che frequenta, che ha le sue frequentazioni a pagamento, nessuno lo guarda, si tenta magari di guardare quello che fa la prostituta, questa ragazza sulla strada seminuda. Mi sembra che ci sia una distinzione anche tra le due cose, cioè tra la prostituzione di lusso e la prostituzione di strada. Quella di strada è una forma di schiavitù la maggior parte, esatto, delle volte. È una forma di schiavitù proprio che, secondo non me, sempre, la maggior parte che dovrebbe essere eliminato, perché una prostituzione di lusso è già in un certo modo regolamentata, no? In un certo senso, perché ci si arriva solo attraverso certi circuiti. Sì, ma questo è il problema. Adesso, il momento in cui si sta tirando fuori il sangue dalle rape, dice, ma lì girano tantissimi soldi, perché c'è adesso una categoria di persone che può avere un tenore di vita lussosissimo, e soprattutto perché una categoria di professionisti che possono permettersi di spendere cifre per pagarsi le puttane, questi soldi dovrebbero comunque in qualche maniera avere visibilità. Da questa mattina chiunque può guardare nei nostri conti correnti, se io volessi usare parte dei miei modesti proventi per il mio sollazzo fisico, dovrei in qualche maniera farli uscire al nero, se no dovrei giustificare cosa hai fatto con questi 1500 euro. Buongiorno, Giorgia Serughetti. Giorgia Serughetti, buongiorno. È una ricercatrice della Bicocca di Milano, è autrice del libro Uomini che pagano le donne, dalla strada al web, i clienti nel mercato del sesso contemporaneo, EDS Edizioni. Abbiamo chiamato la professoressa Serughetti questa mattina perché vogliamo dare un taglio scientifico. Dobbiamo capire innanzitutto di cosa stiamo parlando. Quando si dice tassiamo le prostitute, tassiamo chi? Tassiamo cosa? Attraverso quali sistemi? Soprattutto chi sono? Lei, professoressa, come la vede riguardo il problema generale, che oggi è sempre più evidente nelle cronache di qualche politico che si alza la mattina e dice da oggi tiriamo fuori i soldi anche dal mercato della prostituzione? Sì, dunque, solo per dire che non sono professoressa, così insomma nessuno si arrabbia. Ah, vabbè. Per il resto, dunque, certo, è un tema complessissimo. Le fa onore, ma lei sta in università, chiamano professore. Va bene, ricercatrice. Il tema è molto complesso e ovviamente dunque io credo che sia giusto, come lei diceva prima, cominciare col discriminare tra libera e coatta, no? Prostituzione libera e prostituzione coatta. Detto questo, poi all'interno naturalmente le sfumature sono molte. Cominciamo a definire questi due grossi filoni, se possibile. Questi due grossi filoni, appunto, in realtà alla base noi assumiamo che esista la libera scelta nello scegliere di prostituirsi, no? Cosa che alcuni negano naturalmente, non si può praticare liberamente la prostituzione. In realtà io credo naturalmente che sia possibile, le donne hanno la possibilità di scegliere in questo senso, di autodeterminarsi. Ci sono dei numeri, dottoressa? Più o meno, dunque, la ricerca a cui io faccio riferimento, che sono di questa organizzazione, l'associazione Parsec, di cui io sono anche parte, hanno sempre in realtà stimato la prostituzione coatta in senso vero e proprio intorno a percentuali del 7-8%. Ora quindi staremo parlando di piccole percentuali, però non esiste soltanto la riduzione in schiavitù, esistono anche forme di negoziazione, diciamo, tra sfruttatore e lavoratrice del sesso, che vanno a vantaggio dello sfruttatore in maniera molto evidente, no? Con grandi parti di guadagni, eccetera. Quindi magari non a caso violenta. Magnaccio è diventato il termine per un'esagerata o profitto sul lavoro di un'altra persona. Esattamente, no? E quindi questa parte, per esempio, è molto più ampia di mercato, in cui magari non abbiamo la riduzione di schiavitù, non abbiamo forme di subordinazione molto violenta, però comunque abbiamo una relazione che va a tutto vantaggio o a gran vantaggio dello sfruttatore. Poi abbiamo, e qui mi rendo conto, scusi dottoressa, sento nel particolare, entriamo in una zona limacciosa, perché il rapporto fra prostituta e sfruttatore, da quello classico, romantico, della commedia italiana a quello attuale, è un rapporto molto difficile da definire. Vai a vedere se quel signore che vive con quella donna e si prostituisce sia il fidanzato, il compagno, l'amante o il pappone. Molte volte c'è un rapporto fra la violenza e l'affettività molto difficile da definire. Molto ambiguo, sì. Anche perché appunto molte delle ragazze che arrivano in Italia anche attraverso tratta, diciamo inganno, tratta, poi sfruttamento sessuale come esito, in realtà vengono reclutate da persone che sarebbero poi loro compagni, fidanzati, insomma, e che poi magari anche in Italia rimangono più o meno i loro compagni fidanzati, e che comunque le sfruttano. Quindi in questo senso c'è questo rapporto molto complesso tra chi sfrutta e chi viene sfruttata nella prostituzione. Beh, poi diciamo che sono le organizzazioni, anche le organizzazioni, certo, invece capillari di sfruttamento, che quindi riducono una pluralità, una molteplicità di donne sotto lo stesso controllo, e quindi questo, per esempio la prostituzione nigeriana è organizzata attraverso queste donne, le maman, che sono ex prostitute e che comprano di fatto delle donne che arrivano dalla Nigeria, che sono sotto il loro controllo. E quindi però le posso dare un episodio di esperienza personale, proprio perché lei ha toccato. Io vengo da una città di provincia, me lo dico, è Perugia. Io mi ricordo che dopo un po' di anni che non ci vedevo più, tornavo ogni tanto, e la grande novità è che attorno allo stadio di Perugia c'erano ogni sera un 100-150 prostitute nigeriane, e il grande divertimento dei perugini è fare questo tourbillon, questo giro costante. Era una cosa che non avevo mai visto, me ne ero andato 10 anni prima e la città era impazzita per questo lavoro. Nella banca, una banca centrale della città di Perugia, tutte le mattine, mi diceva mio padre, allora vivente, arrivava questa mamanco, questo valigione di soldi, e il direttore in persona l'accoglieva, le offriva il caffè con grande ossequio, perché naturalmente era una dei migliori clienti. Ecco, oggi con la fiscalità così sotto controllo, come può secondo lei avvenire ancora questa cosa, che immagino in qualche maniera, non in forma così paesana e provinciale, avvenga comunque, perché ogni mattina qualcuno porterà le valigiate di soldi da qualche parte. Certo, non lo so, in questo caso poi dipende come si gestisce ovviamente l'organizzazione, nel senso quanto si affidi effettivamente alle banche italiane, oppure invece decide di trasferire i soldi in altro modo. Però sicuramente, voglio dire, in Italia non siamo poi così disabituati all'idea che ci sia una quantità di liquidità che si muove, diciamo, fuori dal controllo legale, no? E quindi in qualche modo la prostituzione non è nient'altro che, cioè, la prostituzione che ovviamente, come sappiamo, appunto, non è legalizzata, e quindi rimane un ambito grigio di movimento di denaro, cioè rientra in qualche modo in tutto questo vasto mondo del denaro. Ecco, ma visto che facciamo dei numeri, lei ha detto l'8% sono schiave vere, proprio schiave, quelle che rischiano la vita. Questa fetta intermedia di prostituzione organizzata ma non schiavizzata, in che percentuale possiamo collocarla? Per capire quante sono che lo fanno liberamente, come facessero le parrucchiere o le estetiste, ecco, questo volevo arrivare. Guardi, è molto complicato. Io su questa parte diciamo più intermedia non ho dati che posso riferire in questo senso. Ma penso che difficile sia averli. È molto difficile. Esatto, no? Perché poi è molto difficile proprio anche stabilire quanti sono quelle libere. Attualmente quello che colpisce come fenomeno, diciamo, di evoluzione del mercato è quello a cui lei anche accennava prima, cioè questa straordinaria proliferazione del web, in cui davvero è difficilissimo capire di cosa stiamo parlando, perché le vetrine virtuali parlano, cioè danno voce a donne apparentemente autodeterminate, apparentemente libere, poi non sono solo donne, ci sono transessuali, ci sono uomini, che quindi si propongono come professioniste del sesso a pagamento, e che pertanto sembrerebbero imprenditrici e imprenditori stessi. Eppure non lo sappiamo, nel senso che ovviamente cioè, se il mondo della prostituzione è un mondo della, di finzione, in cui molto, cioè, è molto difficile cogliere quello scarto tra la realtà e la rappresentazione di sé, la messa in scena in qualche modo del sesso, della prostituzione. Per cui anche lì sicuramente, anzi siamo sicuri che in questo mercato cosiddetto indoor, perché è negli appartamenti, nelle case, nelle strutture chiuse, siamo sicuri che ci sono sia fenomeni, anche in questo caso, di grave sfruttamento, e sia probabilmente un settore crescente in cui le persone si mettono in gioco in maniera magari presentandosi come professioniste, ma in realtà facendo questo mestiere in maniera part-time, saltuaria, alternandolo ad altri. È un po' quello che è uscito nella querelle politico-sessuale intorno a Firenze, di cui si sta parlando in questi giorni. Melog, la realtà condivisa. E finalmente un giorno, verso la fine dell'estate, quando quasi non ci si pensava più, arrivarono, e uno solo, di fronte al cimitero. E quanto sono? Dove? E quanto volano? 600 lire. No, Tony, Raffaele ha detto che sono un pone continentale. Sei uomo? No, dall'Oriente Sicolo. Sì, c'è la Messina. Ci volevo io. Andiamo. E finiscila di tremare, che mi stai facendo tremare pure a mia. Avanti, convinciti. Oh, bravo. Ecco, così. Avanti, senza paura. Tony, ti piace? Insomma, la volete venire voi altri? Io è mezz'ora che ci combatto. Pure voi altri, che cosa siete? Certo, questa era l'Italia di Gregoretti, l'Italia del dopoguerra, che si arrivava al boom quando arrivava la prostituta nel paesino siciliano. Era un grande avvenimento, era una sorta di signore benefattrici, per poi ragazzi sfigatissimi, la donna l'avrebbero vista soltanto il giorno che si sarebbero sposati, quindi c'è questa iniziazione. Ma non c'è nulla di romantico in questo, qua si parla di numeri, stiamo riflettendo sul fatto che stanno crescendo le proposte, le iniziative di legge, i disegni, le ipotesi di tassare la prostituzione. Tassare la prostituzione perché? Perché non c'è più trippa per gatti, si raschia anche il fondo del secchio, e quindi ci si rende conto che l'ingente quantitativo di denaro che circola comunque nel mondo della prostituzione, che stiamo vedendo variamente definito, una parte fatta di schiave vere e proprie, quindi un turpe e violento luogo di malaffare, una parte intermedia, quella più diffusa, prostitute che hanno dei rapporti di vario tipo con chi sfrutta il loro lavoro, e quindi c'è una sorta di sodale, più o meno sodale rapporto, che è quello più diffuso, e poi ci sono quelle che lo fanno per loro totale volontà, perché è un lavoro che rende. Io ho digitato escort sul motore di ricerca mentre andava la sigla. Non dice nulla, perché sono numeri del tutto ipotetici, ma sono 194 milioni di risultati. Il primo risultato è Escort Milano, vedo semplicemente un campionario di signore dove c'è il telefono, ci sono le foto delle signore nude in tutte le pose, facilmente verificabili in tutte le loro meraviglie, elencano le loro specialità, sono tutte affabili, gentili, pazienti, nessuna dice sono semplicemente una che fa il mio mestiere, no, danno tutta l'idea di qualcosa di accogliente, accennano le loro specialità, quello che fanno, quello che non fanno, quello sì, quello no, quell'altro ancora, mettono un numero di telefono cellulare che uno può direttamente chiamare, dice esclusi perdi tempo, cioè non sono un numero erotico a cui si chiama per sospirare al telefono, no, fanno il loro mestiere, probabilmente il loro mestiere se lo fanno pagare anche abbastanza bene. Beh, su questo ci domandiamo se non sia giusto comunque mettere una tutela di tipo fiscale, nel senso che svolgono un mestiere, ognuno di noi paga le tasse su tutto, è giusto che fatturino anche le loro prestazioni, visto che il loro lavoro va a gonfie vele, pare uno dei pochi che non sia in crisi. Riccardo, buongiorno. Buongiorno signorini. Ma una cosa, buongiorno molto... chi, scusi, buongiorno? Sì? Buongiorno signorini. Signorino chi? Signorini a lei. Signorini. Perché mi chiama signorini? No, solo per sapere. Lei è libero di chiamarmi. Signor... Cioè, per chi mi ha preso? No, no, ma sta prendendo per il culo? È una maniera che si è, non so. No, buongiorno signorini, ma non si chiama signorini lei, scusi. No, veramente no, veramente no. Vorrei essere signorini, è un fortunato collega, però non sono io. Ah, comunque. Ma no, ma scusi. Vabbè, comunque non si preoccupi. No. Le ricordo signorini. Può essere, può No, no, non è ambiguo, ognuno ha il suo nome, non è che sono ambiguo. Riccardo, solo volevo raccontarle solo cosa sta succedendo nella vicina Svizzera. Io sono di Varese. La vicina Svizzera, molto pratica, nel Canton Ticino, quindi senza andare chissà dove, a parte gli cantoni tedeschi che già lo fanno, hanno deciso semplicemente di subordinare l'apertura di locali a luci rosse, volgarmente detti bordelli, al fatto che le ragazze paghino le tasse. Li hanno chiusi tutti un anno e mezzo fa, li stanno riaprendo a condizione che le ragazze paghino le tasse. Pagano 700-800 franchi di tasse al mese, indipendentemente dall'incasso. Quindi una sorta... Ma è limitato soltanto, diciamo, in questi luoghi riconosciuti o possono esercitare anche... Solo, certo, solo limitato nei luoghi riconosciuti. Cioè privatamente non possono farlo, fatturando? No. C'è una legge sulla prostituzione cantonale che impone che in determinati luoghi e con certe caratteristiche, non siano in mezzo ai paesi, non siano in zone... Ah, quindi diciamo è una sorta di legalizzazione delle case chiuse? Cioè, praticamente in questo modo hanno anche recuperato tutto il patrimonio immobiliare dismesso che potevano essere i vecchi motel... o i vecchi condomini. Quindi il cantone tiene sotto controllo l'attività, esatto, recupera denaro che altrimenti sarebbe perduto e continua a tenere la prostituzione, diciamo, pagano libera. Le tasse, pagano la cassa malati, che è la previdenza sanitaria della Confederazione, tutti sono contenti, c'è un controllo sanitario, chi lavora non lavora, paga, se non lavori te ne vai perché evidentemente non produci reddito. E questo nel cantone Ticino. Nei cantoni tedeschi, che sono calvinisti e più pratici, la cosa esisteva già da 30 anni. Quindi lei ha una buona esperienza cantoniera, diciamo, su questo fatto? Io ho una buona esperienza perché conosco molta gente sul posto che mi ha raccontato cosa succede. Non mi vergogno a dire che frequento. Vabbè, ma io mica sto qui a fare il prete. Cioè, lei fa quello che vuole, è liberissimo. Però, diciamo, lei trova che, diciamo, un servizio così regolamentato tolga anche il senso di clandestinità, di colpa, di peccato? Lei va lì come uno andrebbe a farsi il pedicuro, la manicura, è la stessa cosa. Sì, esattamente. Le ragazze... Cambia l'appendice sottoposta all'attività altrui, ma alla fine è la stessa cosa. Ma io la penso come lei, Riccardo. Enrico, buongiorno. Buongiorno, ecco, Nicoletti, buongiorno. Una cosa semplice dico. Ha detto prima lei, non c'è più trippa per gatti. Il fatto che queste ragazze, queste signore, usufruiscano di tutti le assistenze sanitarie che fornisce lo Stato, e credo che ne abbiano anche parecchio bisogno. No, se pagano le tasse, giusto. Bravo, il fatto che impiegano centinaia di uomini delle polizie e carabinieri sul territorio per controllare quello che avviene, che si sa purtroppo avvengono, è giusto che diano un contributo, capito? Un contributo per far sì che si ammortizzino un po' tutte queste spese, perché non è che le tasse deve pagarle quella perché si vede passare col macchinone, dice vedi quella fa quella vita lì, c'ha il macchinone e non paga neanche le tasse. Le tasse vanno pagate per far fronte alle spese che richiede quel tipo lì di mestiere. No, ma una volta regolarizzato non richiede altra spesa che quella che richiede qualsiasi, come un ciabattino o come una parrucchiera. Qual è la differenza? La polizia interviene perché c'è uno sfruttamento, c'è un'attività illegale e su quello continuerà a intervenire. Mi sembra che si stia parlando di quella fetta di volontarie e signore che hanno deciso di prostituirsi come loro attività. Sono così poco clandestine che basta digitare su internet, Tescott ne trova a milioni, quindi milioni, a migliaia, quindi evidentemente non hanno nessuna maniera di nascondersi. Non so se mai qualcuno ha fatto dei controlli fiscali in quella direzione. Chissà se la dottoressa Giorgia Serughetti, che ha scritto un libro, una ricercatrice della Bicocca di Milano, Uomini che pagano le donne dalla strada al web, clienti nel mercato del sesso contemporaneo e di S-edizioni, su questo si è posta qualche domanda, sul fatto che, essendo ormai così palese questa forma di prostituzione, magari non tutte scrivono esattamente faccio la prostituta, dicono mi occupo di te, ti do il benessere, con le orecchie, con le narici, con la bocca, chiaro, però nessuno esattamente dice faccio la prostituta. Ma su questo come mai non c'è mai stata nessun tipo di attività di indagine o repressiva, secondo lei? Ma per me è molto chiaro, nel senso che in realtà appunto il mio libro è interamente su questo. Mi sembra che ci sia un doppio livello di intervento sulla prostituzione, cioè un livello di intervento e un livello di non intervento che passa quasi perfettamente sulla linea del dentro e fuori. Cioè tutto ciò che è visibile sulle strade negli ultimi anni è stato oggetto di pesanti attacchi anche repressivi. Tutto il sistema delle ordinanze antiprostituzione è stato prevalentemente orientato a rimuovere i corpi delle donne, dei transessuali, degli uomini anche dalle strade. Cioè a spostarli da un posto all'altro, che poi alla fine... Spostarli, renderli invisibili, il più possibile invisibili. Quindi l'effetto quando si sono state emanate queste ordinanze è stato quello di effettivamente farle migrare verso o aree più periferiche, e quindi in realtà per chi esercita la prostituzione più pericolose naturalmente. Quello per tacitare la brava gente che fa le petizioni, non se ne può, ma anche ci hanno anche ragione. I comitati di quartiere. Che hanno anche ragione, onestamente, non è un piacere avere nel proprio quartiere, ma non tanto per le prostitute, per il via vai che c'è attorno, è una cosa bestiale. Se passa in un quartiere dove c'è una prostituzione stradale, è un via vai continuo, giorno, notte, strilla, urla, bottiglie rotte, succede di tutto, non è una cosa allegra avercele sotto casa, questo me ne darà atto. Erano presenti in zone diciamo più facilmente raggiungibili, erano raggiungibili anche per esempio dalle unità di strada che le potevano non soltanto aiutare dal punto di vista per esempio della riduzione del danno, no? Quindi preservativi, orientamenti ai servizi sanitari, certo, e di tipo sociale, ma anche per esempio nella fuoriuscita da circuiti di sfruttamento, quindi dando il nome antitratta e il riferimento di sportelli per uscire dalla tratta. Ovviamente renderli un fenomeno meno visibile significa togliergli delle possibili tutele. Dall'altra parte invece l'approccio al fenomeno, al chiuso diciamo più in generale, quindi quello meno visibile che poi è beffardamente visibile come dicevamo, no? Sul web dove prolifera, dove si vede in ogni modo, cioè ci raggiunge anche quando non lo vogliamo, nel senso che poi pop-up che ci compaiono. Cioè se io facessi l'ispettore delle tasse, metterei con un computer e un telefono, comincerei a telefonare e direi: signorina mi scusi, ma lei le paga le tasse per questa attività che promette? Che non le possono pagare le tasse tra l'altro, no? Perché in realtà è uscito anche negli ultimi anni, certo, intanto usciva la dichiarazione di quella che diceva: ma io le vorrei pure pagare le tasse, signor Monti, no? Quando c'era Monti c'era quella prostituta che diceva: io vorrei pagare le tasse, ma come faccio? Cioè non è possibile perché il mio mestiere non è riconosciuto. Ci fermiamo solo un secondo, devo dare il traffico, poi continuiamo. Qua mi sembra il punto focale della trasmissione è questo: a un certo punto esiste l'attività, è percepibile sotto gli occhi di tutti, ma per una qualsiasi fattispecie assurda, se anche volessero non le potrebbero pagare. Melog, la realtà condivisa. .800 24 0024, mi rendo conto che non siamo ancora culturalmente pronti per parlare con serenità di questo problema. Siamo indubbiamente un popolo di puttanieri, perché lo vediamo dalla virulenza e dall'abbondanza di offerta che c'è, quindi se c'è offerta c'è naturalmente anche qualcuno che di questa merce sa bene cosa farne. Però c'è come un senso di imbarazzato, come i ragazzini quando parlano di cose sconce. Mi scrive un SMS, ma è un po' il sentimento comune, eh? Che ridicolaggio, poi che facciamo con la fattura della prostituta, la mettiamo in nota spese? Ma no, vale come la fattura di un massaggio ayurvedico, di uno shampoo alla camomilla, è chiaro che non lo mettete in nota spese, fa parte di un trattamento voluttuario come un altro. Riusciamo un attimo a staccare all'esercizio sessuale questa sorta di carica emotiva, che è giusto che ci sia per chi a questo naturalmente attribuisce un valore etico, morale, di condotta, ma dal momento che per molti l'esercizio sessuale è qualcosa che fa parte del proprio benessere, ci sono persone disposte e disponibili a trasformare questo in una loro libera professione, e visto che questo accade e su questo c'è un gettito impressionante di denaro, non vedo perché, visto che ci stanno contando ormai anche i capelli che abbiamo in testa, su questo non si debba comunque avere una giusta tassazione. Mi ero interrotto con la dottoressa Giorgia Serughetti, che è una ricercatrice alla Bicocca Milano, che ha scritto un libro proprio sugli uomini che pagano le donne. Riprendiamo il filo su dove ci eravamo lasciati, dottoressa, sul fatto che in realtà poi, per paradosso, se qualcuno andasse a bussare alla porta di queste signore dicendo pagate le tasse, queste non potrebbero, ma le tasse poi vanno messe sui generi che loro in quali loro investono il loro denaro, la casa che hanno, le automobili, i vestiti, il tenore di vita. A noi misurano tutto, anche le vacanze che facciamo, i televisori che acquistiamo. Perché in quel caso non è possibile, secondo lei? No, vabbè, poi il tasse sul patrimonio naturalmente le pagheranno anche loro, la questione sul reddito. E sul reddito, dunque, il messaggio che lei leggeva prima in realtà non è totalmente folle, nel senso che il tipo di resistenza che c'è a dire fatturare, diciamo, a vedersi fatturato un rapporto sessuale è reale, ed è abbastanza reale da portare a dire che forse se si regolamenta in questo modo la transazione, in qualche modo si crea poi una sacca più vasta di illecito. Poi le faccio un esempio, dottoressa, faccio un esempio. Chi viaggia sa che in tutti gli alberghi esiste la televisione satellitare. Chi viaggia sa che la televisione satellitare ha una serie di canali a luci rosse. Si sa che c'è scritto accanto al televisore satellitare verranno addebitati i film senza il titolo del film nella nota a spese. Varrà la stessa cosa anche per le prestazioni delle prostitute, si metterà trattamento, realtà, non lo so, mi sembra che... Certo, in realtà si può fare, è ludibile la cosa. Esistono anche altri sistemi, nel senso che se per esempio le lavoratrici del sesso pagassero sui proventi presunti, per esempio, le tasse, cioè con sistemi di questo tipo, senza fatturazione delle singole prestazioni, sarebbe una modalità... Poi si potrebbero fare dei controlli, naturalmente. Già sarebbe qualcosa, ecco. Già sarebbe qualcosa, perché sarebbe qualcosa che in qualche modo ci conserva quello che io credo sia giusto conservare, cioè la percezione che ci sia una sensibilità necessaria su questo tema, che non si possa trattare esattamente come un lavoro o come un altro. Per quanto giustamente lei dicesse, oggi si inserisce all'interno di tutto questo vasto mondo dei servizi per il corpo, dei servizi per il piacere, che sono anche contigui spesso alla prostituzione, non sono necessariamente altro, sono anche vicini. E però appunto conserva o qualcosa che ci inquieta di più, e infatti ne stiamo parlando, nel senso che appunto cioè, mette in gioco una parte appunto molto intima di sé, e le stesse lavoratrici del sesso forse non sono così disponibili all'idea di vedersi iscritte a un albo, registrate come... Beh, potremmo passare tutte per trattamento, visto che negli annunci mettono per il tuo benessere, operatrici del benessere, poi se fanno le parrucchiere o fanno i massaggi, una cosa però... Lei sa esattamente come avviene sempre il pagamento? Sempre cash o alcune sono anche attrezzate per pagamenti con carta di credito? Ci sono anche in alcuni siti le transazioni con carta di credito, quindi sicuramente io credo che in Italia sia ancora più marginale questo tipo di transazioni, in altri paesi è più sviluppato. Però appunto esiste anche questa modalità attraverso il web sempre, no? Però nell'incontro in realtà face to face poi di fatto è abbastanza è cash, insomma funziona attraverso denaro liquido. Il paradosso è che fra un po' potrebbe essere il cliente chiamato a rispondere di alcuni soldi in uscita dal suo conto corrente, dovrebbe giustificare. Vabbè, che ci sono mille maniere per poter giustificare il pagamento di una marchetta, anche se poi certe volte le cifre sono anche piuttosto elevate. Abbiamo una telefonata a Roy. Buongiorno, Roy. Aveva già chiamato una settimana fa, è riuscito a passare lo sbarramento delle nostre colleghe telefoni. Di mestiere fa il gigolo, quindi lei praticamente è un prostituto maschile. Buongiorno Nicoletti, sì, sì. Io sono un prostituto, lo faccio da molti anni. E in tutti questi anni lei le paga le tasse sul reddito? Appunto, ho accumulato dei soldi. Adesso, 3 mesi fa, le agenzie delle entrate mi hanno multato e mi hanno insomma contestato metà di tutto quello che ho guadagnato. Quello che aveva in banca. Quindi io non ho problemi a pagare le tasse, però vorrei che in questo caso sto facendo un contenzioso contro lo Stato, perché la prostituzione non è un reato, ma lo sfruttamento sì. Quindi in questo caso io verifico che i miei soldi vengono dalla prostituzione, quindi lo Stato non farà altro che sfruttarmi prendendomi i miei soldi. Quindi il reato lo fa lo Stato in questo frangente. Ma lei cosa ha detto? Lei quando le hanno contestato questa cifra ha detto questo l'ho guadagnato facendo il prostituto. Esatto, io e poi è tutto filmabile, nel senso io ho le prove. Come filmabile? Perché lei filma quando no, va con le clienti? No, nel senso ho delle prove anche tramite giornali, tramite interviste. Vabbè, insomma, lei dice, è notorio che fossi un prostituto. Esatto, ma loro lo hanno proprio evidenziata questa cosa, quindi lo sanno che io faccio. Ma che titolo gli hanno chiesti? Come hanno detto? Reddito su cosa? Su quale attività? Non si sa, mi hanno aperto una partita di IVA d'ufficio e adesso stanno valutando, insomma, il da farsi. Però io, tramite il mio avvocato, abbiamo trovato questo escamotage, perché se lo Stato prende dei soldi da un prostituto o da una prostituta, non fa altro che sfruttare questa prostituta. Quindi è un reato. Allora, o tu mi permetti di pagare le tasse in modo regolare, oppure non andiamo avanti in questo. Però caso. Sai che c'è una sentenza della Costituzione, della Cassazione, dice proprio questo: seppur contrario al buon costume, questa cosa qui comunque non costituisce reato, deve pagare le tasse perché deve pagare le tasse. Da questo... Allora, io quando è ipocrita, ma c'è... Ma io, quando porterò il mio assegno circolare di 50 o 100 mila euro, vorrò un foglio scritto dallo Stato per quale motivo loro mi prendono questi soldi, e dovranno sottoscrivermi qualcosa. È molto interessante che sia un prostituto alla fine della trasmissione che ci dà l'escamotage, che potrebbe fornire uno strumento di rivalsa a tutte quelle a cui andranno a chiedere le tasse. A domani.